9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no, tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno da Oscar Giannino, buon giovedì 30 agosto e a coloro, io non ne conosco, che si chiamano Fantino, comunque è un santo che dovrebbe vegliare sul fatto che l'Italia riesca a rimanere in groppa al suo futuro, al suo destino e lo stesso consentire a chi abita in Italia il suo cittadino, il suo residente. Perché dico questo? Oggi, vedete, abbiamo deciso di non parlare, tra l'altro perdonate, ma ieri poi mi sono dovuto qua fino a sera dei danni al mio garage, alla mia automobile, eccetera, eccetera. Veramente non ho parole, è una cosa che mi deprime, che qualcuno abbia deciso di segnare il rientro dalle sue vacanze facendomi a pezzi macchina e tutto il resto. È proprio, non lo so. Non riesco a immaginare che io possa dire cose tanto fastidiose, comunque la pensiate, da meritare una cosa simile. Sarà proprio che è colpa mia, forse non mi rendo conto delle parole che mi escono di bocca. Mettiamola così. Chiusa parentesi, oggi però ci occupiamo di una vicenda che ha a che fare con storia, carne, sangue, perché parliamo della vicenda che vede i minatori sotto 300 metri di profondità, Anoraxi figus, i minatori della Carbosulcis, giunti al, sarà il sesto giorno di protesta oggi quando le ore vanno avanti della giornata. Ieri un minatore, Stefano Meletti, che pure viene descritto dai suoi colleghi di lavoro come una persona serenissima, molto misurata nelle reazioni, a un certo punto ha perso la calma e si è ferito. E è una storia lunga quella della miniera del Carbosulcis. È una storia che ha a che vedere con un carbone troppo zolfato e con investimenti che sono considerati al limite, anzi oltre il limite da molti, per rendere questa miniera produttiva, perché c'è un problema di abbattimento dell'anidride carbonica, ma c'è un problema di desolforazione poi del carbone per renderlo utilizzabile. E i minatori del Sulcis, non da oggi, ma negli anni 80, negli anni 90, insomma, hanno una lunghissima tradizione di lotte, perché il problema si è regolarmente riproposto per la tenuta di questo impianto. Sullo sfondo della vicenda loro e della loro protesta tenteremo anche di parlare con il minatore che ieri ha perso il controllo. Abbiamo lo sfondo di una regione in cui ci sono più di 1000 imprese che sono chiuse. Una vicenda in cui c'è la vicenda di Portovesme, dell'Alcoa, una vera e propria, ma non solo deindustrializzazione, deeconomizzazione di una regione intera nel quadro di un paese che sta alla perdita di reddito disponibile più seria del secondo dopoguerra. Ecco, oggi parliamo di questa vicenda e di queste cose tenendo sullo sfondo poi tutto ciò su cui la politica riavvampa, l'interpretazione delle telefonate di Napolitano alla procura di Caltanissetta di anni fa, che cosa davvero abbia detto Napolitano, se sia giusto o meno invitare la Fornero alle feste del PD, tutte cose di cui ho il massimo rispetto. Ma io ieri mi sono trovato d'accordo con quello che Giulio Sapelli ha scritto sul Corriere della Sera, e naturalmente non perché io sottovaluto il problema dei costi degli investimenti che sono necessari per desolforare quel carbone è un problema da sempre, da quando lì il fascismo puntò sul carbone povero di cui era dotato l'Italia e dell'abbattimento sotterraneo dell'anidride carbonica. Naturalmente io non sottovaluto tutti questi problemi, poi tenteremo anche di capire con il presidente di Confindustria della Sardegna in che misura l'intero piano, oggi la miniera e pubblica di sviluppo dell'area, possa tenere conto delle compatibilità economiche. Ma la sistematicità temporale con cui questi minatori, che sono poi anche delle figure che hanno a che vedere con il mito della fatica dell'uomo che nelle viscere della terra piega Gea all'utilizzo che noi dobbiamo fare delle sue risorse, tutto questo mi ha portato a dire: Sapelli ha scritto un bellissimo pezzo sul Corriere della Sera ieri, ha ragione lui nel dire che hanno ragione loro, a patto di non dimenticarci poi di tutti quelli per cui perdere il lavoro diventa un problema non solo di economizzazione della loro vita, ma di impatto durissimo di un progetto di vita. Questo è proprio radicato addirittura non sulla terra ma sottoterra, diventa ancora più simbolico per questo. E allora abbiamo deciso di invitarlo qui tra noi. Voi dovete consentirmi, prima di cominciare, solo di leggere una lettera che riguarda un altro tema sul quale ieri ho deciso di stare zitto, quello della sentenza di Strasburgo sulla legge 40, perché io su questo rispetto l'opinione di tutti, io sono un ex referendario su quel tema lì, ma c'è una lettera che vi voglio leggere, perché quando ieri, tornando dallo sfascio di giornata riservatomi da chi ha deciso di farmi a pezzo neanche nel garage, sono tornato a leggere le mail, ho trovato questa mail di un lettore che si chiama Cesare Ponchiroli, che io voglio molto ringraziare e che vorrei leggervi almeno in parte per un minuto di riflessione prima di occuparci del Sulcis con Sapelli, proprio sulla vicenda dell'impugnativa sulla legge 40. E la storia è questa, inizio a leggerlo. La legge 40 è stata censurata dall'Europa, mi scrive Cesare Ponchiroli, un po' meno prona dell'italietta nostra ad alcuni desiderati. Qual è la storia nostra, mia e di mia moglie? È questa. Mio figlio era spacciato e per salvarlo c'era una sola strada, il trapianto di midollo. Donatori compatibili però in tutto il mondo, nessuno. Disperazione, vuoto, autocontrollo quotidiano, notti bianche. Così andava la vita mia e di mia moglie, scrive Cesare. Poi un giorno guidavo, era il 2003, sento alla radio che in Inghilterra una coppia aveva costruito un bambino, sì, termine brutto, ma insomma l'aveva programmato così che potesse fornire il midollo necessario a salvare un suo fratellino o sorellina. Musica allora, speranza, voglia di vivere, adrenalina. Se l'avevano fatto loro potevo provarci anch'io. Taglio corto, nel 2004 mia moglie inizia il primo ciclo di fecondazione assistita. Avremmo poi dovuto impiantare gli embrioni diagnosticati compatibili, aspettare che nascesse un bambino, usare il sangue del suo cordone per trapiantare il mio primogenito e, naturalmente, sperare, vista la lunghezza dei processi. Molto difficile, ma molto meglio che star seduti ad aspettare. A metà trattamento arriva la legge 40. Precipitosa interruzione a metà del trattamento, inizia l'incubo. Da allora io e Laura, mia moglie, abbiamo ripetuto 7 volte la procedura all'estero, affrontando costi di tutti i generi che non so quantificare. 6 fallimenti. Ma la 7ª volta è nata Sofia. Ha donato il suo midollo a Federico, trapiantato dal professor Locatelli a Pavia. Quel giorno mio figlio iniziare a produrre globuli rossi. Per 11 anni era rimasto in vita grazie a una trasfusione ogni 3 settimane, portando addosso una siringa motorizzata tutte le notti, da quando aveva meno di un anno. La nostra avventura è stata così peculiare che sono stato invitato a Roma per raccontare ai ricercatori di tutto il mondo la nostra storia. Ho dovuto e abbiamo dovuto fare tutto da solo, come fuori legge, fuori dall'Italia, senza arrenderci a questo stato canaglia orgoglioso di approvare, battendo il record di velocità, una legge che impediva a un malato piccolo di sopravvivere. Ma tanti bambini da allora sono rimasti a morire in Italia perché le loro famiglie non potevano permettersi di affrontare quello che ho affrontato io. Oggi non ho potuto vedere resistere alle prime pagine dei quotidiani e le scrive. Bisogna fare qualcosa. Ecco, io sono rispettosissimo di quello che i cattolici pensano della difesa della vita. Rispettosissimo. Ma i limiti, alcuni dei molti limiti su cui sono intervenute molte sentenze della legge 40, hanno questo effetto paradossale, non aiutano affatto la vita, ma impediscono a malati di andare avanti. Io mi commuovo su queste cose e sbaglio, però perdonatemi, volevo leggervela perché l'impegno per migliorare la vita di tanti bambini malati, secondo me, è una cosa che dovrebbe prevalere su quello che leggo in termini di appartenenza politica e partitica. Capisco, i valori fanno i voti e su questo bisogna essere realisti, però ci sono delle cose fondamentali che sono le vite e le sofferenze. Perdonatemi se mi si è incrinata la voce. E andiamo adesso a parlare invece della vicenda del Sulcis, ed è con noi Giulio Sapelli, ripeto, che insegna storia economica alla Statale di Milano. Ieri ha scritto, precedendo il capo dello Stato, che vi si è aggiunto, mi fa piacere dire che c'è chi scuote le coscienze anche delle responsabilità istituzionali che tante volte, forse sulle grandi crisi di impatto aperte, tengono la bocca chiusa quando gli italiani e i lavoratori avrebbero bisogno di sentire calore intorno a sé. E Giulio Sapelli ieri non ha avuto esitazioni. Perché, Sapelli, buongiorno intanto e grazie di essere con noi, ma perché, no, buongiorno. Perché hanno ragione quei lavoratori? Beh, hanno ragione al di là di quelle che sono le costrizioni economiche che l'assetto del potere capitalistico pone nella loro azione, ecco. Cioè hanno ragione perché sono i protagonisti, non sono gli ultimi, ce ne sono anche altri, ma sono come gli altri dimenticati, i protagonisti dell'etica del lavoro. Cioè davanti al fatto che gli artigiani non trovano ragazzi che vogliono andare a lavorare, che molto spesso i colloqui nelle piccole e medie imprese, i giovani si presentano accompagnati dalle mamme che stremano per le fatiche a cui saranno sottoposti i figlioletti, e davanti al fatto che c'è una disoccupazione strutturale terribile, beh, c'è un gruppo, un pugno di eroi, insomma, io infatti alla fine dico bisognerebbe cantare un'ode davanti a questi ultimi eroi del lavoro che fanno il mestiere più pericoloso del mondo, certo non è più quello che era nell'Ottocento, soltanto nei primi anni del Novecento, scendono nelle viscere della terra, la fatica è disumana, chi c'è stato in quei luoghi, anche se oggi sono tecnologicamente avanzati, sa che è una sofferenza terribile. Io ho visitato anche le miniere del Cile, eccetera, dove per certi versi sono molto più avanzate tecnologicamente, poi sono miniere anche a cielo aperto, ma comunque è un lavoro terribile, terribile. E questa gente, come ricordava lei, ha condotto ciclicamente in un'isola che è sempre stata di difficile crescita, perché non dimentichiamo mai che i territori a bassa intensità di popolazione hanno degli ostacoli alla crescita formidabili. Lì si è aggiunto il fallimento dell'assistenzialismo, tutti i giovani turchi democristiani hanno prodotto dei guasti spaventosi negli anni 70-80 creando dei grattacieli nel deserto che sono nati già inefficaci. Beh, questi indicano a tutti che c'è il lavoro, bisogna esserne degni. Secondo, poi qui mi fermo, una tradizione che molti pensavano fosse morta, cioè voglio dire, fino a qualche anno fa in Scozia, in America Latina, in Spagna, i figli dei minatori volevano fare i minatori, penso un po', ecco, perché c'era la fierezza del mestiere. Per questo io ho detto bisogna star loro vicini, bisogna far sentire tutto il nostro calore, al di là di quelle che possono essere le differenze di impostazione economica, di differenze di impostazione politica, eccetera. Questo mi pare che dobbiamo a questi eroi del lavoro questo omaggio. La questione che mi colpisce, sì, sulla sistematica rituale, cioè, sì, almeno una volta ogni 10 anni i lavoratori, sì, minatori del Sulcis, certo, vengono dal Presidente, certo, del Consiglio, certo, ricordiamo tutti quella mitica promessa di Berlusconi, no? Tanto, sì, ecco. Sì, sì. Allora, quando è capitato un anno e mezzo fa in un paese sudamericano che ci fosse un problema in una miniera, l'intero paese, il presidente, l'intero, certo, paese, certo, si è concentrato, certo, lì per settimane, sì, no? Tutto. Sì. Ecco, sì, da noi la ritualità di queste cose, secondo, sì, te, dipende dal fatto, sì, che questi valori non sono più radicati e sentiti da chi ha la rappresentanza politica, da chi ha la rappresentanza sindacale, da noi dei media, da tutti insieme, ma noi, da chi? Ma noi si è disseccata l'anima di questo paese. La separatezza tra la funzione e il senso, che detto in termini filosofici, vuol dire che ormai, ma non solo ahimè a livello istituzionali, politici, cioè, ma anche l'impresa, tu pensa che arretramento culturale sia stato nell'impresa spaventoso, no? Questo paese ha perso l'anima, rimangono ancora dei focolai, no? Il volontariato, l'elemento religioso, gli ultimi intransigenti politici, gli utopisti che ancora esistono, ma le istituzioni, quella che si chiama, io non uso mai questo termine, la società civile, che spesso è molto più incivile, la società politica, no? Ecco. E beh, lì abbiamo perso l'anima. Perché? Perché abbiamo perso l'orgoglio del lavoro, l'orgoglio delle cose fatte bene, al di là del premio e delle punizioni. Tu pensa che ormai, voglio dire, anche i dirigenti, il fatto che tu il dirigente sia pagato sugli obiettivi è una follia, no? Cioè, il dirigente deve prendere i soldi perché deve fare il suo lavoro bene, poi se lo fa bene o meno gli obiettivi. Cioè, si è fatto di tutto per sminuire la spiritualità che c'è nel lavoro. E quindi adesso cogliamo i frutti, no? Questi arrivano, questa povera gente che lavora intransigente, dignitosa, arriva, va davanti a questo muro di cartapesta, sente i soliti discorsi, se ne ritorna. Credo che nella loro anima sappiano già che sono già abbandonati, sono degli argonauti, no? Che sono pronti a salire su una nave che se non affonda galleggerà, appunto, come ha fatto in tutti questi 20 anni, perché poi dopo lì dovremo fare un grosso discorso su quale dovrebbero essere le vere alternative, il fatto che a queste persone bisogna dire la verità. Insomma, bastava leggere il Financial Times ieri, sì, c'era tutta un'intera pagina, tu l'avrai visto, no? Naturalmente, sulla crisi delle miniere Tucuri in tutto il mondo. In tutto, no? Il mondo, esatto. Sì. Non so, voglio dire, dalla BH Billington, dalla Rio Tinto. Ecco, allora, voglio dire, quindi bisognerebbe porre, ma bisogna dirlo a questi eroi del lavoro, bisogna parlare loro francamente, non illuderli con queste cose, voglio ecco, dire. Allora, questo punto che tocchi mi consente di farti un'altra domanda, perché prego. Naturalmente molti ascoltatori adesso ci dicono, vabbè, però non è che potete fare l'elegia degli eroi quando il problema è che se davvero gli investimenti necessari per abbattere sottoterra le anidride carbonica e poi per desolforare il carbone che producono è talmente elevato che l'impianto non è produttivo, a furia di non dirglielo, e tu stai toccando esattamente il punto. Allora ti faccio un esempio. Corrado Clerc, che è attualmente il ministro e che anche 10 anni fa, infatti i minatori in protesta ricordano, attento Corrado Clini, che già 10 anni fa ti abbiamo riservato alcune attenzioni, dice: il mio dovere è quello di dire ai minatori e alla regione che attualmente è proprietaria dell'impianto, ragazzi, qua la compatibilità per andare avanti non c'è, io non so cosa dirvi. Allora, il non so cosa dirvi, visto che la palla adesso passa alla regione, dice il piano deve farlo la regione, e quindi, ma in una regione in cui tutto decade, che piano fa la regione? No, però calma. Qui io sono, voglio dire, sono stato anche un po' parte in causa quando c'era il dottor ingegner Soru, ecco, che mi aveva chiesto di occuparmi del piano minerario. Ecco, poi dopo non c'erano le condizioni istituzionali perché io lo potessi fare, ma lì c'è da dire quello che abbiamo fatto, c'è da fare, non solo da dire, quello che si è fatto in Europa e tutti i vecchi siti carboniferi e minerari. Che sono stati, dove i minatori sono, anzitutto è stato salvaguardato il loro posto di lavoro riqualificandoli, sono diventati degli esperti, degli insegnanti, si sono costruiti dei musei del carbone, si è creato un turismo industriale. Certo che in un paese dove l'industria viene sempre vista come una cosa sporca, terribile, insomma, la gente non apprezza neanche la bellezza dell'archeologia industriale. Noi siamo tra i primi al mondo, la società di archeologia industriale italiana è forse la prima del mondo dopo gli americani e i francesi, ecco, dopo ci siamo noi. Si potrebbe fare di quelle aree geominerarie un insieme di attività turistiche, scientifiche, istituti tecnici di riqualificazione degli operai, favolosa, se ne parla da anni, hanno stanziato un sacco di soldi. Se tu pensi a quello che si spende in Sardegna a persona per la formazione, svieni. Ecco, allora non basta dire, come fa il dottor Clini, che ha passato tutta la sua vita in un ministero, io per carità ho un massimo rispetto, non basta dire no, bisogna dirgli cosa si può fare, e secondo me si può salvare l'occupazione, si può riqualificarli, si può creare un indotto formidabile per la Sardegna, avere un indotto turistico sostenibile tutto l'anno, facendo quello che hanno fatto in Francia, in Alsazia-Lorena, quello che hanno fatto nel Sud, quello che hanno fatto in America. Esatto. Ma ragazzi, ma bisogna muoversi, però. Sì, perché dopo decenni bisogna muoversi, e anche qui imparando dal meglio. Questa cosa qui avremmo potuto farla 10 anni fa, e non si è fatto nulla, e si è illuso le persone. È così. È una vergogna. Allora, io ringrazio Giulio Sapelli, ci ha chiamato, credo, il vicepresidente di Assocarboni, che ha chiamato, credo, il centralino Rinaldo Sorgenti. Buongiorno, Sorgenti. Buongiorno, dottor Giannino. I miei complimenti per le sue capacità di condurre questo tipo di trasmissioni. Io volevo intervenire perché ho sentito, anche di quanto diceva il professor Sapelli poco fa, alcune considerazioni per quanto riguarda il Sulcis. Credo di conoscere la materia. Allora, verissimo che il carbone del Sulcis è noto per essere un carbone con un alto contenuto di zolfo, però quello che conta oggi sono le moderne tecnologie, e le moderne tecnologie permettono oggi di poter utilizzare convenientemente quel carbone senza i problemi che nel passato evidentemente creava questa situazione. Se si conoscesse, si divulgasse un attimino di più quello che è il progetto integrato del Sulcis, che da alcuni anni è in itinere e che è stato recentemente anche portato all'attenzione della Commissione europea, che sta attentamente esaminando la cosa, si potrebbe realizzare nel Sulcis, peraltro l'unica area in Italia dove la demagogia non porta a discriminare e a criminalizzare il carbone, ha un progetto che è veramente virtuoso e di valenza a livello davvero mondiale, perché permetterebbe di rilanciare l'estrazione del carbone fino a un potenziale di circa 1,5 milioni di tonnellate, che renderebbe evidentemente a quel punto economico quell'attività, costruire a bocca di miniera una moderna centrale a carbone con la tecnologia, per esempio SNOX, adattissima per trattare combustibili ad alto contenuto di zolfo. Un esempio, questa tecnologia è stata applicata nelle centrali termoelettriche che sono presso la raffineria Eni di Gela, dove appunto bruciano il coke di petrolio che deriva dalla locale raffineria, che ha un alto contenuto di zolfo, con risultati che sono migliori delle tecnologie tradizionali a calcare. Dopodiché si può applicare la cattura della CO2 e sequestrare la CO2 nelle vene del carbone, che sono declinanti sotto il mare, sulla costa della Sardegna, fuori costa, e che sotto 800-1000 metri permetterebbero di poter estrarre, con la tecnica ECBM, che vuol dire Enhanced Coal Bed Methane, il metano. La CO2 si sostituisce nella microporosità al metano che è contenuto appunto nelle vene di carbone, e questo ha il vantaggio di poter anche in questo caso economicamente rendere fattibile quella tecnologia. Ebbene, questa cosa, anche per le dimensioni non eccezionali, sarebbe davvero qualcosa da perseguire, che meriterebbe di essere meglio conosciuto ed appoggiato da parte del nostro governo. Le posso fare una domanda relativa all'utilizzo della quota che è rimasta in estrazione molto al di sotto delle potenzialità complessive dell'impianto di carbone solforato da Nolax Figus? C'è, tra le tante osservazioni polemiche a fianco di questa vicenda, una relativa agli impegni mantenuti dall'Enel nell'utilizzo di questo combustibile fossile. L'Enel fa presente che il prodotto che gli arriva va mischiato a carboni molto meno solforati, americani, colombiani, eccetera eccetera, per esempio in impianti che pure sono dotati di tecnologie di filtri di abbattimento poi adeguati, cioè all'altezza delle nuove tecnologie come a Porto Tolle, ma naturalmente questo ha un impatto sulla quantità che è utilizzabile, poiché va mischiato con carboni meno zolfati. Da quello che ho capito io ieri facendo 3 telefonate, la tesi dell'Enel mi sembrava fondata. Attualmente, Sorgenti, secondo lei è così o c'è anche qualche cosa relativo al prezzo relativo naturalmente dei carboni diversi? Molto opportuna questa riflessione. Quello che dice l'Enel è assolutamente corretto. Il problema, come accennavo prima, è la tecnologia. Ora, al Sulcis Enel dispone di un modernissimo impianto a letto fluido e quindi può permettersi di bruciare questo carbone diluito con carbone di importazione, in modo tale da renderlo compatibile con la tecnologia di quell'impianto. Ecco perché si dice, il progetto integrato prevede che in combinazione con il rilancio dell'estrazione del carbone in termini economici, quindi al di là delle attuali circa 300.000 tonnellate che ritira l'Enel dalla Carbosulcis evidentemente permetterebbe, con una tecnologia diversa, moderna, che va sotto il nome per esempio di SNOX. SNOX è una tecnologia brevettata da una società danese, allora controllata al 50% da Snam Progetti, che non è una novità, basta andare a Gela e rendersi conto di che cosa consiste. Ecco la differenza ed ecco l'importanza e la necessità di fare l'opportuno approfondimento, certo, su queste cose, altrimenti si rischia di cadere nei luoghi comuni. Nei luoghi comuni, dica, concluda, perché dobbiamo andare in pubblicità. Una piccola considerazione, quello che diceva prima il professor Sapelli. Ebbene, parlare di crisi delle miniere mi sembra forse un ossimoro. Teniamo conto che il carbone è il primo combustibile utilizzato al mondo per produrre l'elettricità, il 41% dell'elettricità mondiale è prodotta dal carbone e lo è soprattutto in tutti i paesi più ricchi e sviluppati del pianeta, Stati Uniti, Germania, Giappone, Inghilterra, Canada, eccetera, eccetera. Allora bisogna davvero, e la invito a farlo, visto la sua serietà e attenzione a questo tipo di problematiche che sono non solo sociali ma di tipo soprattutto economico, certo, a fare corretta informazione su questa materia dell'energia. L'Italia è la Cenerentola del mondo, produce energia elettrica da carbone solo per il 12%, la media europea è al 31-32%. Sì, esattamente, sì. Si figuri, io mi impegno a farlo, sa che sull'energia poi quando parlo però a volte molti pensano che sia un po' troppo fissato, però accetto volentieri l'invito di Rinaldo Sorgenti. E come vede, oggi stiamo parlando di questo, siamo partiti dalle vite, dall'impatto sulle vite dei minatori di Carbosulcis e siamo immediatamente arrivati alle considerazioni economiche. Siamo in ritardissimo con la pubblicità. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati qua in studio, stiamo parlando della vicenda di Noachi Figus, della miniera di carbone Carbosulcis che vede le centinaia di minatori sotto 300 metri di profondità al sesto giorno di protesta, venerdì l'incontro a Roma. Abbiamo tentato di approfondire un secondo storia e problemi relativi alla convenienza di quel tipo di carbone, ma anche possibilità da anni, da molti anni, di rendere economico quel combustibile fossile con la tecnologia di cui disponiamo, nel quadro di dover aumentare l'indipendenza energetica del nostro paese, con una percentuale di energia prodotta da carbon fossile che in Italia è bassissima, meno della metà della media europea. E andiamo avanti con telefonate, alcune telefonate. Claudio che ci chiama dalla provincia di Cagliari, per esempio. Dottor Giannino, buongiorno. Le faccio i complimenti per la sua trasmissione, per l'impegno che ha avuto verso le partite IVA, disperati mai, eccetera. Io volevo dire il mio punto di vista, non sono un minatore, la Sardegna ha mille altre possibilità. Siamo oppressi, come tutte le altre regioni d'Italia, forse anche un pochettino di più, dal punto di vista che non ci viene dato il niente di ciò che serve a sfruttare queste possibilità, come è ostacolato il lavoro dei minatori, delle fabbriche della chimica, è ostacolato allo stesso modo qualsiasi iniziativa in agricoltura, industria. Quando lei dice ostacolato, ce l'ha con il potere locale, con la regione eccetera, o con quello nazionale? Da chi? No, diciamo, io penso da vari gruppi, io penso che il popolo italiano sia parassitato da vari gruppi, la politica che ha interesse a fare i suoi intrallazzi e tutte queste cose, chi è già il businessman che è già arrivato a un vertice che non vuole nessuna concorrenza, anche lui fa in modo di partecipare a un sistema, di tenere oppressi tutti quegli altri cittadini che vorrebbero risolvere il sistema a modo loro. Avete parlato prima del discorso dell'Inghilterra, che ha abbandonato l'industria mineraria da molto e ha riconvertito gli operai. Perché in nessuna regione d'Italia si riesce a riconvertire gli operai, eppure servono tecnici elettronici con vari profili professionali o tecnici di tutti i generi? Ecco. Cioè noi facciamo decadere le cose e poi invece di prenderle in mano e saperne gestire la riconversione e devastiamo così la vita, i consumi, la vita innanzitutto e le famiglie della gente. Grazie Claudio, sentiamo Giovanni da Torino. Giovanni. Buongiorno dottor Giannino, sono un tassista di Torino che ha avuto anche il piacere di conoscerla. Grazie, andiamo al punto. Volevo dirle, non è che l'italiano non esprime solidarietà al minatore sardo, il problema è che in Italia stiamo vivendo tutti la stessa situazione. Io le parlo del Piemonte, hai idea di quante aziende stanno chiudendo in Piemonte? Sì, purtroppo. La Fiat ha fatto promesse importanti e continua il suo silenzio assordante. Doveva partire nel 2012, nel 2013, poi nel 2014. Io faccio il tassista e faccio 3 corse al giorno. Non mi vergogno di dirle che l'INPS del mese di agosto ho dovuto chiedere i soldi a mio padre, che è un pensionato di 70 anni. Lei sa quanta vergogna provo nel dire questo? Posso immaginare. Siamo disperati, questa gente non si rende conto, non si rende conto che la nostra rabbia, se si riversa sulle strade, succederanno cose importanti. Non si rendono conto. E io mi auguro, Giovanni, che se ne rendano conto, ma anch'io devo dire, in questo 2012 ho avuto spesso l'impressione, per questo ci siamo inventati disperati, ma è così via, che non se ne rendano conto. Anche adesso, quando la mattina leggo alcuni dibattiti tra la legge elettorale, Berlusconi vuole, non vuole andare a votare a novembre, io solo, dice lui, o anche alcuni pezzi del dibattito del PD intorno agli inviti, sì, la Forno sì, la Forno no, rispetto a una condizione di un paese che sta messo come segue il più alto abbattimento di redditi disponibili in percentuale e contratta nel tempo, in unità di tempo così stretta dal secondo dopoguerra, perché di questo si tratta come ordine di grandezza. Ecco, io credo che le parole di Giovanni da Torino, che sono sicuro esprimono la stessa terribile preoccupazione di chi sta sotto 300 metri a Noraxi Figu, sono le parole su cui la politica dovrebbe riflettere di più. E con noi Marco Noce, un giornalista dell'Unione Sarda, che naturalmente segue stabilmente e sistematicamente, non come noi colpevolmente solo quando si arriva alla protesta sottoterra, la vicenda del Carbus Crucis, ed è lì. Quindi innanzitutto grazie a te per darci questa testimonianza diretta. Come passano, buongiorno, come passano queste ore in attesa da una parte dell'incontro di venerdì e dall'altra questo gesto di ieri del minatore che si è ferito? Secondo te che cosa testimonia? Qualcuno inizia a perdere la calma, oppure la speranza è che ci sia una protesta ma tutti con la testa sul collo? Dunque, insomma, la sensazione è che il gesto nasca da una disperazione reale e peraltro viene da uno dei minatori che in questi giorni lui è stato il portavoce della protesta e fa parte della rappresentanza sindacale unitaria, quindi è un sindacalista, è uno abituato a trattare, a mediare, tra l'altro è una persona anche solitamente molto lucida, fredda e razionale. Io ho avuto la sensazione che si sia partiti con l'idea di fare un gesto dimostrativo clamoroso, perché insomma la conferenza stampa convocata a 370 metri sotto il suolo, peraltro in un posto diverso da quello nel quale fino a quel momento eravamo stati ammessi noi giornalisti, ovvero non nella galleria allo sbocco della gabbia, che è questo ascensore che percorre mezzo chilometro in verticale in 4 minuti e mezzo, ma in una galleria parallela davanti al cancelletto della Santa Barbara, dove hanno, come ci hanno dimostrato attraverso dei documenti, sono veramente custoditi 691 kg di esplosivo e 1221 detonatori. Ecco, l'idea è che volessero fare un gesto dimostrativo, ma che poi in qualche modo davvero la disperazione abbia prevalso su ciò che era stato pianificato, perché insomma ho visto Meletti durante il suo intervento gradualmente farsi sopraffare dalla rabbia e nel momento in cui ha tirato fuori il coltello, anche rivedendo le immagini più volte, i suoi due compagni di lavoro mi sono veramente sembrati sorpresi e spiazzati dal gesto, tant'è che poi la tensione con cui siamo tutti stati cacciati in pochi secondi da quella galleria era assolutamente reale e palpabile. È stato un momento veramente drammatico. Sono contento di sapere che oggi stia meglio, ecco. Ah sì, questo tutti noi. Ci aiuti sinteticamente, e questo significa dover poi chiedere scusa a tutti coloro le cui vicende richiamiamo nel giro di un minuto e mezzo, ma il punto della terribile crisi che vede oltre 1000 imprese nel giro di un anno venire meno in Sardegna, qual è l'atmosfera che si respira e il confronto con le autorità politiche locali rispetto alla gravità e all'intensità di questa crisi in Sardegna? Ma il punto, guarda, posso essere franco, è quello di essere arrivato al redderazione dopo una serie di rinvii continui, mi sembra che si sia seguita costantemente una politica dell'emergenza, no? Nel momento in cui scendevano per le piazze i lavoratori dell'Eurallumina si cercava di tamponare, magari di attivare gli ammortizzatori sociali, e dopodiché c'erano in piazza quelli dell'Alcoa e lì si trovava un modo per rinviare, insomma, il momento della verità. Adesso ci sono nuovamente i lavoratori della Carbosul, che sono arrivati vicinissimi al livello di guardia, anzi forse oltre, perché insomma si è sparso del sangue, e però la realtà è che un discorso completo e organico sul problema del Sulci si è cominciato ad affrontare soltanto recentemente con la messa a punto di questo piano Sulci, di cui insomma anche ieri ha riparlato il sottosegretario De Vincenti, che è un piano che metterà in campo 300 milioni di euro adesso per riconvertire, però probabilmente insomma a discutere di riconversione, a ipotizzare un'economia che non fosse solo insomma quella unica mozione industriale, insomma, come è stato il Sulci negli ultimi 30 anni, probabilmente si doveva cominciare a pensarci negli anni 80, quando invece per esempio insomma ci fu una proposta da parte del governo Craxi di un grosso investimento per superare la monocoltura industriale, invece fu rifiutata, ecco, cioè, si è creduto a lungo in un modello che già mostrava la corda 30 anni fa e non si può arrivare a discutere oggi nel 2012 della possibilità di rilancio di una miniera del carbone senza aver pianificato. Mi sembra che il contrasto molto forte tra le altissime professionalità che ho avuto modo di conoscere giù in miniera, perché ti assicuro hanno ingegneri, hanno chimici, hanno insomma persone di grandissima preparazione che spesso sorridono, no? di come noi raccontiamo, certo, a volte. Certo, l'approssimazione assoluta con cui. Certo, loro sai, si trovano ad avere a che fare con colleghi anche nostri che scendono giù con l'idea che si scavi ancora col piccone, no? E sono cose insomma di cui loro riescono ancora a sorridere, però a fronte di tante competenze, di tanta preparazione, trovi un'interfaccia nel mondo politico che invece si limita a gestire di volta in volta l'emergenza di turno, e poi quando arrivano i disastri rischia di farsi trovare seriamente impreparato, come adesso. Guarda, ti assicuro che in questi giorni la tensione è altissima nel Sulci, per questa mancanza insomma di interfaccia tra mondo del lavoro e mondo politico. Allora, io su queste parole conclusive, perché lo saluto e lo ringrazio, del collega di Unione Sarda, Marco Noce, sono integralmente d'accordo. Chi avesse in mente la matrice input-output dell'economia italiana, cioè da dove ci tira più prodotto potenziale, dove meno, e costantemente ragionasse in questi termini rispetto alla scarsità di risorse pubbliche, saranno sempre di meno, come sappiamo, a disposizione, ma alla necessità di mobilitare al meglio l'allocazione delle, anche qui, non troppe risorse private, ma che magari si possono anche accrescere da fondi, investimenti esteri, dalla BEI, dai capitali privati, se sappiamo essere competitivi nelle condizioni di contesto, dalla giustizia ai tempi amministrativi, al costo dell'energia e così via. Ecco, chi ragionasse così non avrebbe aggravato i problemi che poi sono alla radice della bassa crescita italiana rispetto a qualunque altro paese avanzato, sia quando le cose vanno bene, sia quando le cose vanno male, prendendo sempre tempo e pensando solo alle elezioni pro tempore. Qui il quadro della capacità degli incentivi e disincentivi politici di ragionare sulle linee di sviluppo di un'isola come la Sardegna, con le sue caratteristiche, e di alcuni tipi di produzione che storicamente sono stati insediati e che però vanno avanti come tutti gli altri, dovendosi confrontare con le sfide di prezzo, di competitività, di cosa ambientale, visto che il mondo corre mentre noi stiamo pensando solo ancora a Berlusconi sì, Berlusconi no e i premi elettorali. Ecco, questo ha un impatto terrificante rispetto all'accrescimento del morso che la crisi dà alle tasche, alla testa, al cuore degli italiani, molto più che negli altri paesi avanzati, che pure non se la passano bene, ma noi stiamo peggio degli altri perché non siamo capaci di fare questa roba qua. E la politica, chi obietta, dice sempre che la colpa è di qualcun altro. Questo è purtroppo la caratteristica del sistema italiano. Siamo in ritardo anche con le formazioni sulle strade, e poi torniamo con il presidente di Confindustria Sardegna, Massimo Puzzo. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati qui, purtroppo, con Jim Morrison. Questo non è l'augurio che noi rivolgiamo alla miniera di Nuraxi Figus. come a tutte, purtroppo, le vicende di impresa aperta in Sardegna, un'isola, perdonatemi, che ha avuto una serie di crisi terribili aziendali in questo ultimo anno. Ed è con noi appunto il presidente di Confindustria Sardegna. Gli chiedo quali considerazioni la vicenda del Carbosulcis, ma più ampiamente l'entità della crisi che si respira in Sardegna, porta Confindustria a fare, quali considerazioni, quali tipo di interlocuzione si può pensare di lanciare localmente con il governo su questo. Intanto buongiorno e grazie Presidente per essere con noi. Grazie a lei Giannino, mi permetta in apertura anche di esprimere da parte mia personalmente, ma anche da parte degli imprenditori di Confindustria che mi onoro di rappresentare, la totale solidarietà nei confronti dei lavoratori di Logifibus. Io proprio in questi giorni, durante le feste, ho avuto la possibilità, durante le vacanze, di visitare una miniera, e sono stato proprio 30 metri sottoterra e solo per vacanza. Questa era anche una, penso sia stata anche una idea intelligente in Sardegna di fare una piccola rincoversione di una miniera, quindi mi sono reso conto solo per poche ore per vacanza cosa significa stare 30 metri sottoterra. Immagino appunto la sofferenza di questi lavoratori. Idealmente, con tutte le cautele del caso, dentro quel tunnel è come se veramente ci fossimo tutti noi, tutti, anche gli imprenditori, perché oggi, come diceva lei, l'intero sistema economico sardo che veramente fa acqua dappertutto. Solo per dare dei dati, dall'inizio della crisi ad oggi noi in Sardegna abbiamo perso 11.500 posti di lavoro, e se però andiamo a considerare, diciamo, nell'insieme, tra il picco positivo che avevamo raggiunto nel 2004 dal punto di vista dell'occupazione a il picco negativo ora del 2012, in Sardegna noi abbiamo perso 45.000 posti di lavoro. Questo è per dare proprio l'entità numerica dell'effetto della crisi che comunque sta interessando la nostra regione. Purtroppo, guarda, detto da un imprenditore, da un rappresentante dell'imprenditore, penso che sia ancora più preoccupante dire che comunque purtroppo siamo davanti ad una sorta di desertificazione industriale, perché da un lato abbiamo il sistema delle grandi imprese, quello appunto della Carbosulcis è un esempio, ma non solo. Purtroppo questo aspetto riguarda il sud, perché poi abbiamo una serie di divergenze aperte anche con il Ministero dello Sviluppo Economico, aziende che, grandi imprese del settore non solo appunto metallurgico, del settore tessile, del settore della chimica, a Ottana per esempio nel centro Sardegna, a Porto Torres nel nord. Ma dall'altro, la cosa che poi ci preoccupa ancora di più, io rappresento appunto Confindustria, ma Confindustria in Sardegna significa comunque un sistema di piccole e medie imprese. Lei si immagini che il 90% delle nostre imprese ha meno di 10 dipendenti, quindi certo. Un sistema è la spina dorsale del sistema economico, fatto da imprese comunque purtroppo sottodimensionate in un mercato che è un mercato ridotto, e anche la dimensione delle imprese raramente ci permette di avere organizzazioni che ci possano portare comunque ad attività sull'internazionalizzazione, quindi sulle esportazioni. Comunque abbiamo anche, nonostante questo, delle eccellenze che oggi si stanno mettendo in evidenza, ma purtroppo io penso che, guardi, la vera causa di questa, sì, diceva molto bene prima il giornalista, la vera causa è forse il continuo rimandare delle problematiche, ma forse è proprio la causa principale che negli anni proprio è stata forse trascurata, o forse non siamo riusciti tutti, perché tutti ci dobbiamo mettere, tutti abbiamo, penso, una piccola parte di responsabilità, che sia proprio essenzialmente la mancanza di alcune soluzioni a problemi strutturali che sono proprio insiti nella natura dell'insularità della nostra isola. Perché, Giannino, noi abbiamo, non abbiamo bisogno dell'assistenzialismo, perché l'assistenzialismo ci ha portato solamente agli effetti che oggi vediamo, non solo per le grandi imprese, ma anche sulle piccole imprese. Noi in Sardegna abbiamo avuto degli anni in cui, più che imprenditori, ci sono stati dei prenditori di incentivi. Ecco, questo, esatto, mi fa piacere che lo dica lei, perché è quello che ripeto io spesso. Perché dobbiamo essere sinceri. Esatto, cioè, per carità, esatto. Poi io mi onoro di rappresentare un sistema di imprese, di imprenditori seri e corretti, ma non possiamo nascondere che in Sardegna, esatto, abbiamo avuto momenti in cui addirittura non si sono fatte le imprese in funzione di quello che può essere il mercato, la domanda, si sono fatte imprese a seconda degli incentivi a disposizione, esatto, che ci potevano. Noi abbiamo alcune zone industriali, la eviterei venire in Sardegna, che sono veramente dei deserti, perché ci sono capannoni che non hanno mai aperto, che hanno esclusivamente preso i soldi e sono scappati. Quindi noi, il primo, non abbiamo bisogno di assistenzialismo, ma abbiamo bisogno, lo dico spesso, di poter partire dalle stesse condizioni degli altri. Cioè è come se noi iniziassimo una partita di calcio anziché partire dallo 0-0 partissimo dallo 0-3. Aspetti, io qui la devo fermare perché purtroppo il tempo è esaurito. Io credo che quando il presidente Massimo Puzzo dice noi partiamo non dallo 0-0 ma partiamo dovendo risalire uno svantaggio, siamo a meno X punti perché la politica non è stata capace di capire i tempi, c'entra la questione di questo paese. Solidarietà ai minatori del Sud e a tutti i lavoratori in Sardegna come altrove che perdono purtroppo vita, lavoro, reddito, patrimonio, perché in questo paese chi sta su si gingilla con altro. Appuntamento a domani, scusate Gianluca e Serafino. Fino alle vostre telefonate, non c'era più tempo per mandarle in onda. Se proprio volete, su www.fermaredeclino.it trovate sia nel sito che in Facebook relativi a www.fermaredeclino.it alcune risposte ai temi di cui abbiamo parlato oggi. Appuntamento a domani, grazie. Radio 24, la passione si sente.